Oh. di già mio padre l'odio de tutor vostro è estinto io mai. Chiedervi dunque io posso in sposa e ottenervi. No, non potete. E perché? Destinato io son per lettere a figliuolo di certo signor. Signor Bruschino. O ciel, e lo vedeste? No, il mio tutor nemmeno di persone il conosce. Esser dove è arrivato costui, ma quale sia, servo fino a voi sol quest'alma mia. E ciò mi basta, tronchedo ad ogni patto il corso a tal contratto. Udite, io per fortuna ignoto di persona sono al signor Gaudencio tutor vostro e ad ognun del castello. Signori, vien qualcuno, entriamo. Ogni mio passo vi farò noto, basta vi ci siate fidate. Oh, sarò questo Bruschino, odiamo. O voglio certo che quel signor Bruschino me la paghi. Ehi! Non c'è nessun. Che vuoi? Siete di casa? Sono l'agente del signor Gaudenzio. Ottimo incontro! È alzato ancora! Non credo! Dirò frattanto a voi perché ne vengo. Io sono Filiberto, locandiere del vicino castello. Da tre giorni albergo un certo giovane detto signor Bruschino, il quale un padre attaccato di gotta, che Bruschino si chiama, ha fatto un debito di 400 franchi. A triste pratiche. E infine io il tengo chiuso per cauzione dentro la mia soffitta. Ecco una lettera che gli mi dia perché il signor Gaudenzio ora la porti ed egli poi la faccia per venire a suo padre. Ma va certo che non esce di là se il suo debito in fria non pagherà. Ah, che pensier mi viene. Ah, imprudente cugino. Egli parente vostro? Sì, Bruschino sono io pure. Ma c'è solo il signor Gaudenzio non venisse a sapere. A me che importa? Che guai, che guai. Nascano pur. Ma come mai? Non è fiali immediato. Danari. E tutto è bello ed aggiustato. Io donare vi darò, vi darò, vi darò. È bruttissimo il futuro. Buona volata sarò, sforzerò, sforzerò. Oh, il presente più sicuro. Vado un patto. Dica pure, dica pure. Prima zitto. Zitto. Zitto. Oh, se il colpo arriva a fare. Oh, se il colpo arriva a fare. Mi fido. 5, 6. Debitore, sono d'arresto, debitore, debitore. Ma si vede l'uomo onesto. Ma cugino si è salvato. Per 3 anni imprigionato. Quella lettera mi fate. Se ne serva, se ne serva. A lei mi fido. Debitore, sono d'arresto. Sì, voi mi siete debitore. E mi fido di dovere. Vuole fare, sì, sì. Non mi vedo a vuole fare, non mi vedo a vuole fare. Mi vedo a vuole fare, mi vedo a vuole fare. Il colpo giunti a fare. Oh, se il resto vinto da me, se il resto non ne ha fare. La bandiera, io stavo, la bandiera, io stavo,

suo padre è un uom fiero piuttosto puntiglioso, ma dovrà perdonargli. Ho inteso, ho inteso! Questo è Bruschino il padre. Poco di buono! Con chi là sentiamo? Andate un po' a far nascere dei figli! Che caldo! E che frutti che l'avete? Devi di giuoco! Amico! Avrà a sentirmi! Vada giù un poco! Signor Gaudenzio mio! Signor Bruschino! Perdonate! Smontore di legno! Che dolor, che caldo! Sento che lo candiere Filiberto, che conosco assai bene, sparse qui attorno gli indegni portaventi di quel signor mio figlio, e ben vedete, che caldo, voi già mi conoscete, mi va il sangue alla testa. Amico Allegri è rimediato. Sì? L'amico è in gabbia. Eh? L'ho qui in casa. In casa? Ed ha operato la medicina, ed è tutto cambiato. Troppo presto, non credo, è una finzione. Che caldo, è una burla. Ma vi prego di vederlo. Vederlo, imbo, non voglio neppur sentirlo nominar. Erbacco, farò io, piedi là. Che feci poi, gioventù, leggerezze, in confidenza, e noi che abbiamo fatto ai nostri tempi, intendetemi. Non me lo ricordo. Or via, parliamo da uomini una volta e concludiamo. Per un figlio già pentito, parli a voi, paterno affetto, per il loro sia compito dal dovere d'amor. E parli a voi, paterno affetto, parli a voi, parli a voi, fratello affetto, per il loro sia compito dal dovere ed all'amor. Bolle sangue, bolle, bolle, bolle, bolle sangue. Da par vostro succedete, da par vostro succedete, succedete, succedete. Faccia tosta, gli andiamo mai, faccia tosta, gli andiamo mai. Tu che canto, e lo decido, deciso è questo mio. E coraggio, ci sono io. Bolle sangue, e bolle sangue, bolle sangue, bolle sangue, e coraggio, ci sono io. Che caldo, che coraggio, che caldo, che coraggio, che caldo, che coraggio, che caldo, che coraggio, che caldo, che coraggio, che caldo, che coraggio, deciso, ci sono io. E questo non può perdere, bolle sangue, bolle sangue, bolle sangue, che caldo, che caldo, indeciso, indeciso. E coraggio ci sono io, non temete, non temete. perdono, padre, le perdono dell'error pentito io sono. Chi è costui? Chi è costui? È vostro figlio! Sono vostro figlio! Chi è costui? Bruschino! Un corno! Un corno! Padre, mio destino! Ehi, scherzate! Arrosisco! Pover'uomo, lo compatisco! Ehi! Ebbene! È caldo! Io non vieni in vita mia! Io non so chi diavol sia! La capite? Sì o no? Io non so chi diavol sia! La capite? Sì o no? Rinegate il vostro figlio per un solido puntiglio a che in voi l'avviso nostro cui natura già in orror cui natura già in orror cui natura già in orror. Cosa andate naturando? Cosa andate barbottando? Cosa andate barbottando, cosa andate barbottando, voi pazzi mi sembrate, voi pazzi mi sembrate, e pazzi con voi non fa. Ah, fermate! Ah, padre, ah, figlio, te grazia consolare. Grazia andare a grazia consolatemi, padre, figlio, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, su, finitela in buon'ora, su, finitela in buon'ora. Lasciatemi in malora, perché gli ho buon'idio, e scendete vado ancora. Peccato che pressione, è tornata la ragione, è tornata la ragione. Voi me l'hai visto strenere, rinnegate vostro figlio. Ma crepandomi il palmone, venite a compassione, passione alla compassione. Dai, vedi, vedi, compassione, compassione, compassione, compassione. Voglio andare al commissario, voglio andare al commissario. Se ritorna quel snaturato del signor Bruschino, viemmelo a dir. Vi servirò a puntino. Sì, tentiamo. Signor. Senti gran cosa. Igual. Per un puntiglio il padre, ahimè, che orror, rinega il figlio. Questo padre chi è? Il signor Bruschino. Il padre del mio sposo.

fina pagherete della vostra crudeltà. Voi la pena pagherete della vostra crudeltà. Sì. Che avete con Bruschino? E il bravo e il voglio. Dov'è questo Bruschino che si dice suo figlio? Eccolo a voi! È un impostor. Facete, è suo figlio. La prova, eccola qua. Che carta è quella? E questa è la sua lettera che non gli per lui ma consegnato. È vero? Va benissimo. E Dio ne tengo un'altra di suo figlio, dal padre riconosciuta. Confrontiamo il carattere, e da questo confronto chiaramente vedremo se egli è suo figlio. Ottimamente! Vediamo! Sì, vediamo! Il carattere è lo stesso in entrambe. Che caldo! Finito ora il puntiglio. Chiara è la prova. Quello è il vostro figlio. Oh, la testa. E andate via. Solo a questo. O all'altro mondo. Ah! Il cervello ci va fuori, il cervello ci va fuori, sotto sopra se ne va. Sotto sopra se ne va, da cima a fondo. Sotto sopra se ne va, sotto sopra se ne va, sotto sopra se ne va. Or signore, tocca a voi. Io comando a voi, Crusher. Vi prego un momentino, comando sostenete. Devo andar se permettete, devo andar se permettete. Ad altrove, ad altrove, ad altrove segnalate. Naso, se lo son, mi caschi il naso. Ma che toglia, io provo in sé, quanto c'è, io vengo a me. le convulsioni, salta il ballo de son qua. Son qua di convulsione. Salto e ballo adesso son qua. Salto e ballo adesso son qua. Vivo qui mi mangerei. Vive le di convulsione. Salto ballo di son qua. Non mi passa la città. Non mi passa la città. Non mi passa la città. E che l'albergo dia mio figlio, ogni cosa schiarirà, ogni cosa schiarirà, ogni cosa schiarirà. Rispondetevi, sole qua, sole qua, sole qua. Debitor suo figlio a voi, perciò venni, sì signore, c'è qui il vostro debitore. Certo, è quello. Bruschino! Ha schiarito! Avete torto! A che pure caschi morto! A che pure caschi morto! Caschi morto! Caschi morto! Che caldo! Che caldo! Ho perduto! Ho già cervello, non è adesso, lo conosco, come figlio, non è quello, tu che calmi, non conosci, non è quello, lo conosci, non è quello, mai la rese la matrà. Sono venuto per esigere il resto del mio credito e nessuno mi paga. Alla malora, io voglio scappar via. Signor Bruschino, favorisca a pagarmi 200 franchi. Un'altra? Io? Siete matto? Me li deve suo figlio. Il figlio mio? Voi siete fortunato. Presto, andate, correte. Egli è di là. Come di là? Se nella mia locanda sequestrato. Or non diceste cosa? Che quel tale era mio figlio! Oh, che era Bruschino! Qual Bruschino? Lei mi ha detto che cugino del di lei figlio e che Bruschino ha nome. E adesso, dove mio figlio? Sta nella mia locanda! E il cugino? M'ha imposto che il tenga rinserrato! Briccone! Capisco! Egli! Venite zitto! Ah, cavalone! Or sì, che tu sei fritto! Caro signor tutore! Vieni a tempo! Convieni per buon ordine ch'io scrutini la figlia, onde sentire come la pensa circa il matrimonio. Siedi in collera, amico! Oh, cosa dici? Ti vo tutto il mio bene! Ma qual contento! E si vede negli occhi l'innocenza. E per farti veder che t'amo assai, t'ho destinata sposa, come sai. Ma se il giovane poi non è figliuolo di quel signor Bruschino. E non pensarci. Oh, che delicatezza. Qua rispondimi a tuono, il giovane hai veduto. Signor, sì. Ti piace? Che candor. Disposta sei a fare un matrimonio? E matrimonio? Cioè, quella semplicità. Tu ti confondi. Matrimonio? Senti e rispondi. Siete al caso. Ora segno in voi avrete per saper se siete al caso. Di quoi sono a me spiegate. E tiro si assegno il cor. Mia carina. Mio carino, mi vado a te, mio carino, mi vado a te, e di Russia, signor Cor.

vi prego perdonar. Sul figlio sei stringete. Venga, sì, venga, correte, via Bruschino! A padre, ma figlio, padre, figlio, Sofia! Signore! Mi vedi? Oh, se prende in questa anima, oh, non tutti aspirar. Oh, se prende in questa anima, non tutti aspirar. Non perdersi i momenti, facciamoli contenti. Io prima penso e credo, son figli di Calibro. E poi l'amore materno, o parsi sbattosso. Sposatevi sul patto, sposatevi sul patto. Tardare più non posso, non tardare più non posso, più non posso, più non posso. Ma sono figli, passati a te, figli, passati a te, figli. Io non so che amare, non so bramare, lasciata piedi, perché mi ci non di più, non so bramare, ma se a te perché mi ci di più, non so bramare, di più, non so bramare. Il mio nemico, padre, vergognoso. Per un solido puntino rinnegato del soffino. Cospettor, cospettor! E il padre stinto. Tornate alla ragione, poverino, la compassione. Avete già sposato? Disgraziati! Padre amato, perdono! Cautendo l'amore, l'infelicità è già! Se non c'è che cadono l'amore, se non c'è che c'è il cuore, 调频98.6兆赫，欢迎收听。感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 刚才我们听到的是罗西尼的歌剧《布鲁斯基诺先生》中的经典唱段。接下来为您带来的是马斯内的歌剧《纳瓦拉人》中的经典唱段，由玛丽莲·霍恩、多明戈等演唱，亨利·路易斯指挥伦敦交响乐团演奏。 Oh. glace brisée. C'est quoi? Te voilà sans blessure. Oh, que je suis heureux. Mais toi, la navarreuse, seras-tu donc toujours rodant autour de lui? Mais si je fermier respectueux ne peut pas épouser une fille de rien. Une rente, une tranchère, mais d'où vient ta navarreuse? Je travaille et j'espère. Fais sa face d'agir. raccomandi. C'est moi, sulla mitraille. Le dernier camarade m'a dit, fais ton devoir. J'étais les plus anciens. Bien, prends la lieutenance. Quartiers vaillants. Je suis fier de toi. Duros. Tana! Je suis là! soit insensé. Prenons les maisons de l'ancienne la campagne. Amenez les canons jusqu'aux barricades. Rizzo, remplacez le commandant Andrés. Vous, lieutenant Fer, respectez les grands gardes. Tenez-vous prêts, messieurs. Vive notre pays! Vive notre Vai, Bisbee! Thank you. avvisati Dugagni. J'ai promis, j'ai frappé l'homme et mort. Malheureuse, tu m'as. Je ne m'en pas. Le pacte était conclu d'île. J'ai demandé le chef. Alors, il m'interroge face à face. J'avais mon couteau sous mon châle. En maudissant, je l'ai frappé ainsi. Voilà. Frappé. Précieuse calore et les balles et fleurs blessée. Ah, que m'importe, me voici et 2000 doulos, cet argent c'est le prix que la rare Tsukaraga je l'ai dit. Écoutez, arrive de Bilbao. C'est la voix de l'amour. 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照。